qua. Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic check check 1 2. Sound check, il suono della musica di Gigi Telesforo. Questo è il soundcheck di Radio 24, la prova del suono direttamente dal Groovemaster Studio. Buonasera a tutti voi da Gigi Telesforo, Francesco Tromba e Silvia Barba. Buonasera a tutti. Ciao. Anticipo che a partire dalle 20, subito dopo l'informazione delle 20, con noi ci sarà il gradito ospite di questa sera, il maestro Marco Rinalduzzi, formidabile chitarrista, arrangiatore, compositore, producer discografico, talent scout d'eccezione, continua a incontrare giovani artisti, ma per citare due nomi importanti del panorama italiano, non possiamo dimenticare che con Marco Rinalduzzi hanno iniziato la loro attività Giorgia e anche il compianto Alex Baroni. Quindi insomma racconteremo anche qualcosa di quel periodo importante per la musica leggera italiana, importante proprio per la musica nel nostro paese. C'era grande fermento che si è un po' fermato, affievolito negli ultimi anni, e a vedere anche quello che è stato suonato al Festival di Sanremo. Noi non abbiamo mai parlato del Festival di Sanremo. Io ne ho parlato tanto su Facebook. Tu sì, sei stata molto attiva. Invece ho notato che il maestro Marco Rinalduzzi, che conosciamo tutti, attivissimo su Facebook con delle polemiche infinite, giusto? Sì, sì. Divagazioni però molto interessanti. Interessanti, sì, sempre cose interessanti. Invece durante il festival si è astenuto da qualsiasi commento e l'ha anche detto: non mi chiedete niente di Sanremo, ha scritto. Silenzio stampa. Invece noi gli chiederemo qualcosa di Sanremo. Infatti, vedete, che cosa sono queste? Delle gocce. Ho preparato le gocce per il maestro Rinalduzzi, che notoriamente è fumino, Tromba, quindi ti pregherei di evitare le domande calabresi che proponi tu ogni tanto. Ok, metterò meno nduia nelle domande. Lo sai che cosa dissi una volta? Una volta andammo a casa di Renzo Arbore a intervistare Arbore, gli fece questa domanda: senta Arbore, tutti sanno che lei ha un brutto carattere. Esordito così. Non ci credo. Che invece è una persona dolcissima, come mai? Ma cercavo di stuzzicarlo un po', di non fare la solita. Lui c'è rimasto io, ma chi te l'ha detto? Poveretto, vabbè, il Tromba, ma noi l'abbiamo scelto per queste qualità, no? E vabbè, perché fare sempre le stesse domande alla fine ad Arbore finisci sempre su quegli argomenti, no? È vero. Invece chissà di cosa parleremo con il maestro Rinalduzzi, che tra l'altro ha pubblicato anche un disco nuovo con la sua nuova etichetta, un disco con il quale si è divertito a suonare forse le sue composizioni preferite, non originali, ma degli standard contemporanei rivisitati con alcuni fra i cantanti più accreditati della capitale. E infatti l'album si intitola, a me piace tantissimo il titolo, è proprio pam, Marco Rinalduzzi e le stelle di Roma. Bellissimo. Bello. No? Una specie di All Stars, no? Allora, direi di passare subito alla musica e di presentare il nuovo album di Omar. Potrei fare una presentazione vecchia maniera, come facevamo a Doc. Dai. Renzo mi consigliò, quando facevamo Doc in televisione, di realizzare un programma nei contenuti, un programma serio musicalmente nei contenuti, ma con argomenti trattati sempre con il sorriso. Quindi anche nelle interviste dovevo fare domande serie, ma poi fare delle presentazioni, come dire, ammiccanti. E come presenteresti Omar? Omar? Facilissimo. Vidi Omar quanto è bello. Spira tanto sentimento su Radio 24. I can tell he really likes you. I've got something I really wanted to know. You are my destiny. It's our love meant to be. Love in beats, l'amore in battuta, ecco, quando uno fa l'amore a tempo, un argomento che senz'altro può essere trattato dai nostri opinionisti qui al soundcheck di Radio 24. Album proposto da Omar, brano era Feeds My Mind, sfama la mia mente, la mia mentalità, il mio cervello. In che modo possiamo sfamare il nostro cervello in questo momento, parlando di musica? Beh, in realtà in quel brano che abbiamo ascoltato ascoltato c'è anche The Flow Assist, che è una grandissima, diciamo, poetessa, potremmo dire, dell'R&B britannico. Tra l'altro stiamo attendendo il nuovo disco di The Floetry, scusami, che doveva uscire, in realtà era stato già annunciato nel 2016 ma è stato rimandato, però hanno fatto una tournée, sono tutti in attesa di questo disco perché... Sì, siamo tutti in ansia, tromba, sì, di questo disco. Sì, io personalmente sei in ansia, si vedo. Sì, perché ci sono le gocce tantissime di Rinalduzzi, te ne posso dare alcune se vuoi. È forte tromba, è in ansia per il disco... Ma Silvia, veramente io questo ragazzo è incontenibile. Beh, ma ultimamente devo dire ha aumentato questa dose di ansia anche nei nostri confronti. Secondo me è perché la televisione, sai, la popolarità a volte lo fa. Però noi siamo soggetti anche a delle critiche, tromba, tu e lo sai, come? Forse per quello sei in ansia, no? No, per quello quando non ti esponi più ti esponi e più hai critiche, lo sai, adesso vuoi diventare una star multimediale e quindi... Vabbè, alla fine quando diventi famoso poi ci sono anche tutti gli haters che ti vengono contro. Ecco, gli haters, vedi, ricevi quello che dai, se tu dici haters, quelli ti odiano sicuramente, però noi potremmo ripristinare una vecchia rubrica che avevamo, tromba. Sì, mettere un po' più di musica ma tu italiana. Eri il responsabile, musica italiana però con un obiettivo, quale? Quello di non promuovere il cantautorato triste. Cantautorato triste, ecco, allora io avete carta bianca sulla gestione di questa rubrica anche a partire dalla prossima settimana. Vabbè, è che dopo ti avevo fatto un paio di proposte ma me le avevi bocciate tutte. Te le ho bocciate, detto, quindi non erano... Non continuiamo. No, non è vero, devi continuare, no? Continuerò, dai. Continuerai. Allora, torniamo a Omar, quanto è bello. Il brano Sinti... Bello questo titolo. Bello. Proprio diretto, eh? Dubi dubi du. Na na na. Soundcheck. Il suono della musica. Direttamente da Memphis, Tennessee, per la Stax Records, il sound di Southern Avenue con le sorelline Jackson in Don't Give Up. Ho ascoltato tutto l'album, poi alla fine mi piace troppo Don't Give Up, il suono, l'appeal, l'approccio e le voci delle sorelle Jackson. Anzi, ti pregherei, Francesco, di contattarle via Facebook, Twitter, quello che puoi, perché un'intervista via Skype a queste signorine che vivono a Memphis, Tennessee, un'intervista bisogna farla. Beh, molto volentieri, proverò a scrivere. Ecco, bravo. Siete pronti con le borse? Perché fra un po' vi porterò in tournée con me. Davvero? Ma in che ruolo ci porti? Parliamone. Ti portiamo le borse. No, vi porto con me come assistenti personali. Bello. Amici. Quello che vuoi fare, che ruolo vuoi, Silvia? No, vabbè, vuoi, sai, salire sul palco, vuoi cantare? Magari, ti faccio cantare, ti dico i brani da preparare. Dai. E così affianchi Joanna Titers. Poi guarda, sarebbe un onore pazzesco salire su un palco con te e con loro, ma soprattutto il fatto di viaggiare, di andare in tour, di spostarsi, questa è una bella cosa. È una cosa bella, è una cosa molto divertente, si imparano sempre tante cose, però inizia a fare un po' fatica, No, dai, non dire così. No, sei vero. Uno che si allena tutte le mattine. Lo so, però andare in giro inizia a essere una cosa pesante, anche perché viaggiamo sempre in Italia, quindi anche gli spostamenti non sono facili a volte, non è che possiamo prendere sempre treni, aerei, perché abbiamo anche gli strumenti. Noi viaggiamo all'antica come musicisti, Voi viaggiate mica con il fonico, è una cosa bellissima. Noi viaggiamo con il fonico, ma viaggiamo con gli strumenti in macchina, come fanno i musicisti veri, E poi il tutto, comunque, per un progetto importante, che è quello che abbiamo ormai sperimentato con gli amici di UNICEF, Sounds for Children, suono per i bambini, United Musicians for UNICEF. Ecco, questo è il tema. E infatti la domanda che ti volevo fare, perché l'ho visto anche sul manifesto ufficiale della tournée, in che cosa consiste questo progetto Sounds for Children? Sì, che abbiamo pensato con gli amici di UNICEF, con questa formidabile organizzazione, che la musica poteva essere sfruttata tantissimo, utilizzata tantissimo proprio per i valori valori che porta con sé per l'educazione dei bambini nelle scuole e anche in contesti sociali difficili a rischio, anche nei campi profughi, perché per esempio il linguaggio della musica abbatte tante frontiere, no? Quindi noi siamo andati in un campo profughi a Trabia, vicino Palermo, guidato dall'UNICEF, dove c'erano ragazzi che erano appena sbarcati dai gommoni, che avevano perso i genitori durante la traversata, ragazzi di varie etnie che parlano varie lingue, che appartengono a varie culture e che quindi avevano un problema di socializzazione fra di loro. Alla fine noi ci siamo presentati con un manipolo di eccellenti musicisti e percussionisti palermitani che ringrazio tantissimo. E la forza del ritmo, l'impatto del suono ha regalato a questi ragazzi tre ore di gioia, di felicità, ed è quello che sto facendo anche in una scuola di Roma a San Basilio, in una classe che ormai seguo da un paio di anni. Non vado lì a dare lezioni di musica, ma vado lì a parlare di musica, dell'importanza della musica e che cosa significa vivere la musica e diventare poi un musicista. Quindi non vado lì a convincerli, dovete fare i musicisti. Credo che questo sia un approccio molto sano per portare i bambini a socializzare, ecco, a condividere momenti di gioia. Beh sì, perché la musica alla fine è il linguaggio più universale esistente, cioè chiunque, anche se non sa parlare la lingua dell'altro, la musica alla fine unisce in qualche modo. Ecco, noi per quello abbiamo realizzato proprio una puntata anche di variazioni su tema per Rai 5, intitolandola Sounds for Children, dove in qualche modo descriviamo tutto questo utilizzando anche due clip che abbiamo realizzato per Fun Slow Ride. Sì, la puntata dovrebbe andare in onda questo mercoledì alle 21. 15, sì, e poi siamo arrivati agli sgoccioli, no? Con la produzione TV. Sì, è la penultima puntata. Va bene, questo però è il soundcheck di Radio 24 e quindi da Southern Avenue passiamo a Miles Mosley, ovvero... Beh, lui è il contrabbassista famosissimo, ma è stato definito le sue band come se Jimi Hendrix suonasse il basso in un gruppo di Prince. Davvero grande potenza, grande personalità, perché è una persona che davvero sul palco si fa notare con chiunque suoni, da Kamasi Washington a tutti gli altri con cui è stato sideman. Questa volta presenta il suo progetto originale. Tu l'hai conosciuto? Sì. Chi te l'ha presentato? Nessuno. Tomba, te che dici? Me lo sono presentato da solo. Chi gliel'ha presentato? No, non lo dite, per favore. Senz'altro Justin. Soundcheck. Il suono della musica. Questo è un Planets con Cure, lui si chiama Sean Wharton ed è un ragazzo canadese che viene da Vancouver, giovanissimo, c'ha tantissimi fan su SoundCloud, ha fatto questo anche dei remix di Gallant che abbiamo ascoltato qui al Soundcheck. Ecco, fortissimo questo On Planets, e tra l'altro arriva dal Canada, arriva da Vancouver, che è una città splendida, il Canada è in grande fermento artistico, musicale, e anche molti artisti americani si vogliono spostare in Canada. Voi che seguite il Tonight Show di Jimmy Fallon avrete notato che molto spesso anche Jimmy Fallon parla del Canada e ci sono delle ovazioni in platea. Perché? Sì, perché sembra che sia un bel posto per vivere. Il posto è fantastico. Tra l'altro anche dal punto di vista culturale, musicale, sociale, sembra realizzarsi quel melting pot equilibrato che... È vero, e poi Silvia lo sa, in questo momento ce l'hanno con Trump gli artisti. Ce l'hanno con Trump e fanno un po' la differenza con quello che è il primo ministro canadese, che è giovanissimo, aperto ed è assolutamente, che si chiama Justin Trudeau. Ma sarà lui? Sta tremando. Non è lui il Justin del quale magari parliamo spesso. Fosse lui, guarda magari quanto è bello. Lui. Va bene, allora questo è il soundcheck di Radio 24. Direi, prima di passare una delle nostre band preferite, ovvero i Phony People, direttamente da Brooklyn con Why I Love the Moon, vorrei un attimo ricordare le date del tour per Sounds for Children, visto che mi viene richiesto. Facciamolo, ce li hai tu sotto mano, Silvia? Sì, ce li ho io, infatti ci stanno scrivendo. Dai, adesso velocemente, perché pagine. Poi accogliamo Rinalduzzi che è arrivato. 29 marzo Perugia, 30 marzo Roseto degli Abruzzi, 31 marzo Cava dei Tireni a Moro, 1 aprile Mattinata a Foggia, l'Auditorium Mad Mali, il 5 aprile a Roma Auditorium Parco della Musica, il 6 aprile a Bologna al Bravo Caffè, il 7 aprile a Ferrara al Torrione Jazz Club e chiudete l'8 aprile a Milano al Blue Note. Bene, sai che stanno ancora facendo richieste, quindi c'è quel piccolo buco, probabilmente nel tour forse andiamo a Cosenza, non so, non è stata ancora confermata, però adesso facciamo una pausa con Phony People, ci risentiamo qui su Radio 24 dopo l'informazione. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Eccoci pronti per la seconda parte del soundcheck qui su Radio 24, sempre con Silvia Barba, Francesco Tromba, Gege Telesforo, e finalmente si è materializzato nel nostro studio, così come abbiamo annunciato, il maestro Marco Rinalduzzi. Quando adesso ti chiamano da un po' di tempo maestro, qual è la tua sensazione, Marco? La risposta è ci sarai. Ci sarai, maestro. Tu dimmi maestro, dimmi. Maestro Rinalduzzi, ci sarò. Esatto. Perché non ti senti un maestro, ormai viene un po' più vicino al microfono, sì. Non si è abituato coi microfoni, più con gli amplificatori. Esatto. No, vabbè. Silvia, ti voglio dire una cosa, il maestro Rinalduzzi ha uno dei falsetti più interessanti del panorama europeo, almeno internazionale non lo posso dire. Questo è uno scoop, dobbiamo sentirlo. È uno scoop perché quando facevamo i dischi insieme e ci serviva una voce con un acuto interessante, si prestava il maestro Rinalduzzi. Dicevate in un'altra maniera, però quale? Dai eunuco? Dai eunuco? Esatto. Marco, sono contento di averti anch'io qui molto, nel molto nostro solido. Studio, di averti nel nostro programma, di parlare di musica con te, perché ne hai di cose da raccontare. Adesso non voglio fare un salto proprio nella preistoria, perché noi ci conosciamo da oltre 30 anni, abbiamo fatto tanta musica, tanti concerti, tanti dischi, tanta roba. Ma la cosa della quale vorrei parlare con te è parlare della musica oggi, magari della musica nel nostro paese. Come girano per te le cose? Non dico per te, proprio nel senso personale, non voglio sapere gli affari tuoi, ma che cosa sta succedendo in Italia adesso musicalmente? Mi dai sta patata che non è niente male. Lo so, dai. È quello che è, quello che vedi, né più né meno. Cioè, è diventata una specie di sottocultura, una specie di cosa casuale che non ha più nessun riferimento, non ha più nessuna direzione. Bene o male, quando si vendevano i dischi c'erano comunque una parvenza di direttori artistici che davano una strada. Un'identità. Non sempre giusta, ma una strada. Oggi è diventata veramente così com'è, cioè, la musica la fanno, parliamo di musica leggera ovviamente. Di musica leggera, sì, anche perché quella è l'unica musica che razzola in Italia, sì, esatto, mi sembra, esatto, no? Esatto, hai ragione. Le altre cose un po' le trattiamo noi, un po' altre... No, chi le fa per conto suo è un eroe ormai, perché già fare la musica leggera diventa difficilissima, comunque è governata dai talent, è governata da una serie di personaggi che circolano intorno alla musica più per gioco che per... Poi il gioco gli è andato anche abbastanza bene e quindi sono tutti lì appecoronati a chi fa poi il famoso... Ho detto una parola forte, vero? No, perfetta, figurati. A chi fa poi, chi ha in mano la maniera di far sentire, di fare, di imporre un prodotto. Vi voglio anticipare che il maestro Rinalduzzi si sta scaldando. Adesso fra un po', quando apri i carburatori, verrà fuori la vera personalità, perché le sue pagine, i social di Marco Rinalduzzi sono seguitissimi, perché lui si lascia andare ogni tanto a degli sfoghi, a volte anche eccessivi. Piccole esternazioni. Esternazioni, che non hai fatto però nel periodo di Sanremo, l'ultimo Sanremo. No, mi sono rifiutato. Tu hai visto la prima puntata di Sanremo, dopodiché hai scritto non mi chiedete niente del Festival di Sanremo. Allora io non ti chiederò nulla di questo festival. La verità è che io ho visto tutto. perché io comunque lo so. Come beh, perché sei un professionista, lo devo fare, no? Certo, però certo. Allora ho preferito, non mi chiedete niente, punto. E non mi hanno chiesto, sono stati bravi, non mi hanno chiesto, anzi qualcuno dice ma dai, dici una cosa, lasciati andare. No, non voglio, no. E che ti posso dire, non, io non è che l'ho trovato troppo differente da dagli altri, cioè, la cosa è quella, come ho detto prima, è guidato da gente che non sa quello che fa. Io quello che ho notato... Troppo nascosto? No, se vuoi posso essere più chiaro, io ti posso aiutare. La cosa che noto negli ultimi anni è che il suono del Festival di Sanremo è veramente omologato, è sempre lo stesso. E anche la proposta che viene fatta, lo devo dire, dai maestri arrangiatori, è quella, far suonare tutta l'orchestra, tutte insieme, un papocchione che a volte sovrasta anche delle belle voci. Beh, guarda, che invece meriterebbero più spazio. Nella musica esistono i silenzi. Certo, guarda, io quando suonavo con Bruno Martino, lui mi ha dato nella vita il più bel consiglio del mondo. Io all'epoca, 30 anni fa, suonavo jazz, quindi suonavo tutto veloce, cose. Lui una sera mi disse, guarda, sei veramente bravo, però non avere mai paura di suonare troppo poco. Ecco, bellissimo. Ma è vero, ma noi lo diciamo spesso, proprio quando parliamo di jazz. Allora, io vedo, scruto... Mi fai dire una cosa? Perché non c'ho, sì, c'ho, ma figo, Marco, il programma è tuo. A proposito di Sanremo, adesso lo dico. Ecco, sono contento. Voi, non so se avete seguito la... Poveraccio, come si chiama quello nero un po' grosso che viene Sergio dalla... Silvestri. Esatto. Mm. Che c'è stata la cosa che quando ha fatto la cover è andato fuori tempo. Fuori sincrono sul click. Cioè. Perché suonavano su una base, no? Sì. Adesso io mi chiedo, il pezzo che lui cantava era Io vorrei la pelle nera. Sì. Allora, Io vorrei la pelle nera con 70 professori d'orchestra bravissimi, c'è bisogno di mettere una base? E non mi rispondo. No, ho fatto solo la domanda. Non ti dico neanche la mia risposta. Perfetto. La cosa che invece voglio fare è ascoltare insieme a te questa nuova produzione discografica che hai realizzato. Ti sei divertito dopo tanti anni da compositore di canzoni originali a proporre degli standards contemporanei, cioè un po' l'operazione che fanno i musicisti di jazz, seguono degli standards in maniera originale. Tu invece lo hai fatto con composizioni che in qualche modo hanno segnato la tua vita di artista, di uomo e di musicista. Fra i tuoi brani preferiti c'è anche questa Do I Do di Stevie Wonder, brano meraviglioso che hai affidato alla voce di un italiano che è bravissimo, grande, sì. E si chiama Riccardo Rinaudo. Sì. Soundcheck, il suono della musica. Sunshine when it's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when it's gone, and this house just ain't no home. Bene, avrete riconosciuto sicuramente Ain't No Sunshine di Bill Withers, ma qui in una versione, non posso dire d'epoca perché non è che sono passati tanti anni, ma ne sono passati. E la cosa bella per me e Marco Rinalduzzi che noi abbiamo vissuto proprio questo momento. Marco è stato proprio l'artefice di questa produzione che per la prima volta ha visto una giovane interprete italiana, allora, adesso è una veterana ed è una pop star del mercato italiano, una ragazza, Giorgia Todrani, che quanti anni aveva? 18 anni? Sì, 19. 19 anni, che dopo aver fatto le sue prime esperienze con una band chiamata Gli Io Vorrei la Pelle Nera, si ritrova sul palcoscenico di questo club che allora andava molto in voga a Roma, che era il Classico, un palcoscenico sul quale ci siamo esibiti tutti. Si è ritrovata con il trio di Marco Rinalduzzi a registrare questo primo album, quello che poi diventò un album, Natural Woman, prodotto per la etichetta americana di Ben Sidran Go Jazz. Quindi possiamo dire che Giorgia ha iniziato la sua attività di solista con una produzione internazionale. E noi eravamo proprio convinti con Marco di aver finalmente trovato un'artista italiana che poteva in qualche modo affrontare quel tipo di mercato. Poi a Giorgia non piace volare e quindi va da sé. Un po' come Aretha Franklin, no? Sì, un suo grande limite, sì. Senti, ci pensi mai a quel periodo? Beh, come no? Quando penso a quel periodo penso alla freschezza, alla spontaneità, alla voglia di mettersi in gioco sempre. Poi quando ho trovato una voce come la sua era un po' il realizzarsi anche delle mie idee musicali, quindi grande feeling, abbiamo fatto concerti meravigliosi, insomma, con lei, con te, con Io vorrei la pelle nera, cioè era un periodo, con il mio amico Mike Francis, cioè era un periodo veramente, c'era tanta musica in giro e io mi buttavo ovunque, dove c'era musica andavo. Certo, dicevo prima a Silvia e a Francesco Tromba che tu sei stato uno dei primi produttori musicisti, ormai sempre parlo di 30 anni fa, a lavorare in proprio nella tua stanzetta con il computer, cioè il primo a realizzare in forma digitale la musica facendo tutto da solo. Te la suonavi, te la cantavi, facevi provini, facevi, e poi hai creato una bella impresa, un bello studio di registrazione. Continui a tenerti aggiornato sulla tecnologia? Quello sempre, perché è una mia passione. Poi adesso mi sono andato a studiarmi le... Sto cercando di diventare un musicista bravo, quindi sto studiando armonia, contrappunto, quindi le orchestrazioni, queste cose qua di cui io sono molto appassionato, e quindi uso tutto quello che posso, insomma, tutto quello che... Hai capito, Tromba, che non si smette mai di studiare quando si fa musica? Certo, soprattutto bisogna sempre tenersi aggiornati, perché altrimenti si rimane indietro e non si sta al passo coi tempi, che è la cosa in assoluto più importante in questo momento. Allora, Silvia, dai. Io sono emozionata a sentirvi parlare di quegli anni e di Giorgia in particolare, perché le cantanti tutte si sono misurate con quei primi dischi di Giorgia, che comunque davano un'impronta, un'originalità oltre alla sua voce, al suo talento. La domanda che faccio oggi, è per essere un po' positivi, è: cosa ti piace oggi, o comunque cosa trovi oggi di bello in qualcuno che avrà, magari non solo in Italia, ma anche ovviamente guardando un po' all'estero? Cosa deve avere un nuovo talento oggi per colpirti? Beh, guarda, a me innanzitutto basta che sia una cosa bella. Poi dopo mi vado a chiedere da dove viene, da dove arriva, se è una novità o meno. Ma se è bella, mi piace. Appunto, per esempio, mi piacciono tante canzoni di Pink. Mi piacciono moltissimo. È proprio un modo di fare rock che a me proprio piace tanto. In Italia devo dire che è morto Pino Daniele. È dura, sì. Non vedo nelle novità, specialmente nella musica leggera, non vedo niente. C'è un sottobosco fantastico, fatto, cioè, che è sommerso purtroppo, ma potrebbe essere il domani. Carolina Bubbico, Serena Brancale, tutta una serie di giovani artisti che girano, che fanno grandi talenti, ma che nessuno se ne accorge, purtroppo. Nessuno. Hanno la loro vita comunque autonoma, come concerti e cose, però certo faticano molto a fare... Quindi quello che tu vuoi confermare, ancora dopo, l'hai detto all'inizio del tuo intervento, è che la musica oggi viene più governata dalla televisione che dalle case discografiche. Ecco, andiamo sempre lì, no? Certo, ma questo modo di fare ha fatto fuori tutti i produttori italiani, perché i produttori italiani sono fuori dai giochi. Cioè, anche se io oggi andassi da Carolina Bubbico, dico lei perché mi ha colpito molto. Beh, è fortissima. Sì. E gli dicessi: ti produco, faccio, dove vado se non ho nessun tipo di appoggio nazionale? Non dico internazionale, insomma, diventa difficile anche per noi fare... Però una cosa che noi abbiamo notato, Marco, è che noi in Italia siamo ancora legati alla produzione proprio del supporto, del CD, dell'organizzazione con l'etichetta discografica e la distribuzione. Negli Stati Uniti i ragazzi si sono organizzati diversamente. Sì, in realtà anche in Italia, guardando magari a degli eventi live, vedo degli artisti come ad esempio Cosmo, che diciamo partiva appunto da una base indipendente, no? Adesso fa sold out nella metà, forse anche di più, dei concerti che fa. Come ci si può riconnettere, diciamo, a questo? Cioè, Cosmo, ad esempio, per dirti, è fuori da Sanremo, non viene rappresentato. Apparentemente, diciamo, si crea tutta questa nuova schiera di giovani che comunque lo segue dal vivo. Però dall'altro lato in radio viene poco rappresentato, in televisione non viene mai invitato. Cioè, che cosa manca in questa connessione tra la realtà della musica, cioè dei concerti veri e propri, e poi quello che viene rappresentato? Ti do una risposta netta: chi se ne frega. Cioè, a me non me ne frega niente che un grande artista non arrivi a Sanremo. Anzi, secondo me ne va del suo bene. Si sta scaldando. Sì, no, perché io ne sono al corrente, anche io ho una nuova etichetta e sto facendo cose mie assolutamente staccate dalle multinazionali, quindi, cioè, io provo a fregarmene, cioè non me ne frega niente. Cioè, oggi mi posso permettere di dire: ti servo, mi dai un sacco di soldi e lo faccio. Se no, se c'ho un giovane artista, io conto di fare in un'altra maniera, che è esattamente quella che dici te, che mi sembra una maniera. Cioè, i giovani devono mettersi in testa che la meta non è avere successo, la meta è fare della buona musica, e poi arriverà quello che arriverà. Tutto qua. Scusate. Vediamo se... No, figurati. Scusate, parlo troppo. No, non è vero. vediamo se ti piace Vincent McMorrow. Il brano si intitola Get Low. To get married, get low. Everybody says, get low. Greatest man alive, get low. I've been told, I can never show. Put yourselves a diamond, get low. Finally getting paid, get low. Can you hear me? Mi. Soundcheck, il suono della musica. Il nostro Antonio Faraò, pianista accreditato in tutto il mondo, pubblica Eclectic. Vi abbiamo già fatto ascoltare il brano con special guest Snoop Dogg. Qui invece questa composizione si intitola Europe, qui al Soundcheck di Radio 24 con Marco Rinalduzzi, il maestro Rinalduzzi, chitarrista, producer, arrangiatore, ma anche eccellente cuoco, ragazzi. Come cucina il maestro Rinalduzzi, anche perché è figlio d'arte, no? Lì non c'è dubbio. Intanto mi racconti come ti sei avvicinato alla musica, quando invece tuo padre cucinava bene e tutti ci auguravamo di vederti dietro i fornelli. Magari oggi potevi essere al posto di Cannavacciuolo. Mia madre, che era una fisarmonicista, quindi la passione viene da lì. Poi un giorno, scendendo le scale, ho trovato uno che suonava, gli ho detto: mi dai lezioni? Ma veramente, questo è andato proprio così, c'avevo 11 anni. E da lì ho cominciato. E la passione non è passata, però. È una malattia. Sta diventando quasi una malattia, sì. È una malattia che ti porta però a conoscere gente incredibile, ragazzi di grande talento, che sono poi quelli, alcuni li hai anche coinvolti in questa pubblicazione con la quale ti stai sfogando. Adesso, da quando la discografia è in crisi, hai capito che ti devi divertire. Assolutamente. E quindi che ha fatto Marco Rinalduzzi? Il titolo è molto forte. Sì. Dovrei pronunciarlo in romano, non sono romano. Marco Rinalduzzi e le stelle di Roma. Esatto. Si chiama Le stelle di Roma. Perché sai com'è nato questo? No. Quando io dovevo trovare il nome per questa cosa, sono andato su internet, ho visto al Village che la sera c'erano Jim Forgest and the New York Stars. Sì, What's Love Again One. E poi a Los Angeles c'era Frank Warren and the Los Angeles. Dico, perché io non lo posso chiamare Marco Rinalduzzi e le stelle di Roma? Esatto, così. E l'hai fatto. E il disco è molto ben realizzato, d'altra Grazie. Parte l'hai fatto tu, e quindi una firma importante, prodotto molto bene e ha il sapore internazionale. E poi il fatto anche di riascoltare tutti insieme una serie di composizioni produzioni internazionali, ma anche alcune cose italiane. E fra queste c'è anche, che ne so, La voce della luna, che è un'altra composizione originale. Eh sì, la faceva, era di Alex, sempre mia, di Marco D'Angelo. Ecco, a proposito di Alex Baroni, tu hai avuto anche questo merito, no? Di incontrare Giorgia e realizzare per lei i primi album, scrivere per lei delle canzoni che sono rimaste, sono diventate degli standard della musica leggera italiana fra le varie composizioni, ricorderei E poi, che sì, è meravigliosa, e poi alcuni brani scritti per Alex Baroni che andasti a tirare fuori dal Festival di Sanremo perché era uno dei coristi del Festival, sì, giusto? Sì. Ecco, io non ti ho mai perdonato il fatto che poi hai realizzato il disco di Alex con la mia band, nella quale suonavi anche tu, e ti sei portato a casa, sì, tutti i musicisti. Vabbè, perdonami, dai. Vabbè, però io poi ho trovato i Deidda, Julian Oliver Mazzariello. Benissimo. Mi è andata bene. E c'è una cosa però che vorrei tu ricordassi agli amici. Quando si conobbero, forse nel tuo studio, dai piloti Giorgia e Alex Baroni, io ricordo una battuta proprio tipicamente romana di Massimo Calabrese, che era il tuo coproducer e grandissimo, sì, amico. La battuta era? Quando fa dei cuccioli me ne date uno. Perché... che è geniale. È geniale. Va bene, approfittiamo per salutare la famiglia di Alex Baroni. Ci manca tantissimo Alex come artista e ci manca tantissimo come persona, un ragazzo adorabile. Va bene, ti sei divertito a realizzare questo disco, ma so che sei già in studio e ne stai preparando un altro. Di che cosa si tratta? Guarda, io ho fatto un concorso per voci nuove, vietando assolutamente l'inglese. L'ho fatto di proposito, ma non perché io non ami perché so che in Italia l'inglese non lo sanno parlare, quindi non vedo perché debbano cantare in inglese. Quindi è un concorso solo per interpreti, perché credo molto nell'arte di interpretare, una delle tante. Ho fatto questo concorso e con mia grande sorpresa ho fatto tipo 200 e passa iscritti. E ne ho tirati fuori 10 senza la televisione, attenzione, solamente con Facebook e basta. E sto facendo un disco per i primi 10 che uscirà il 22 aprile, dove farò una presentazione con questa cosa. Devo dire che ho trovato 10 forti. Ecco, molto forti. Adesso noi stiamo quasi per chiudere il programma e tu sei con la chitarra e stai scappando perché che devi fare questa sera? Stasera c'è la presentazione dell'album di Serena Caporale, che si tratta di un rifacimento di 12 pezzi napoletani. Dove suonate? Al Billions. Al Billions, ok. Siamo andati. Che è un bellissimo club, bellissimo locale. Diciamo che per suonare è uno forse il migliore di Roma perché è attrezzato molto bene. Vabbè, poi organizzato da un musicista come Frankie Lovecchio, che è nel disco. Anzi, fammi vedere, è proprio il brano che sentiamo adesso. Sì, eccolo, Frankie Lovecchio. Attenzione, Frankie Lovecchio è uno dei migliori cantanti italiani, lo dico da sempre. Ma perché non produci un disco a Frankie anche in italiano? Va in coda. Sta in coda, è in preparazione, capito? Frankie Lovecchio con Marco Rinalduzzi e Le stelle de Roma. De Roma. Il brano è un classico, proprio questo è proprio del nostro periodo, composizione di Michael Sembello, colonna sonora di un film che tutti noi abbiamo visto, il brano è Maniac. Soundcheck, il suono della musica. We all arrive through the gate of our dreams and depart through the veil of our tears, and in between, with the passage of time, we measure our moments in minutes and years, and no one can take the measure of another, and no other can know what the other one knows. And only the love from a father or mother can go where our children are destined to go. Eh sì, tanto per non dimenticare che stiamo per partire in tournée dal 29 di marzo, progetto Fans Low Ride per supportare Sounds for Children per l'UNICEF. Eccoci qui, qui Ben Sidran, la voce di Joy Dragland e il giovanissimo Aine, che in questo momento si trova al Berklee College of Boston e mi manda messaggi e mi racconta che si sta divertendo tantissimo. Lo hanno inserito nel coro gospel del Berklee College, a lui che è romano di Roma, è forte questa cosa qui. E poi ha già messo su un quartetto e si sta esibendo per i club di Boston. Quindi auguri a tutti i ragazzi italiani che in questo momento stanno facendo musica bella, musica di qualità in Italia e all'estero. E ce ne sono tanti di talenti, Marco, giusto? Assolutamente sì, molti più di quanto uno si crede. Ecco, perché purtroppo, lo diceva Marco, nelle case discografiche, a parte che non esistono più le case discografiche, ne sono rimaste due di multinazionali. Sì, quello che è rimasto non c'è il coraggio. Ecco, quindi. E anche per gli indipendenti, le etichette indipendenti, nelle etichette indipendenti non c'è la figura del talent scout, quello che la sera usciva, andava per club e incontrava talenti, anche perché internet comunque ha facilitato il rapporto fra gli artisti e i discografici. Dunque, siamo in chiusura. Francesco, stai scalpitando. Quando hai quella faccia da calabrese, hai qualcosa in canna. Che cosa? Sì, no, è una domanda semplicissima. Domandina. Attenzione che gli devo dare le gocce a Max. No, non è una domanda da gocce. Beh, è una cosa tranquilla. Sì, è tranquilla. No, ti volevo chiedere, come diceva lui prima, no? Ad esempio, Aine adesso si sta esibendo nei vari locali di Boston. Questa è una cosa che ho notato in Italia manca tantissimo, cioè proprio i posti veri proprio per la musica, che danno fiducia ai giovani artisti, che danno la possibilità di farsi proprio le ossa. Andando all'estero invece la noti tantissimo, cioè suonano in qualsiasi pub i ragazzi di 20 anni, di 15 anni. Perché secondo te manca questa cosa in Italia e come cosa si potrebbe fare per cercare di migliorarla? Prepara le gocce, Giuseppe, perché qua... Attenzione, sì, sono pronto. No, guarda, questo è il problema proprio più importante di tutti, perché la musica di qualsiasi genere da sempre nasce nei club. Cioè c'era un gruppetto inglese che si chiamavano i Beatles, che hanno fatto una bella carriera. Sì, e sono stati scoperti al Cavern Club, lì suonavano. Io Giorgia me la sono andata a sentire al Fonclea di Roma, Alex Baroni sono andata a sentire in un clubetto a Sanremo e non sapevo nemmeno che fosse il cantante del coro. Quindi... un po' di anni fa, circa 2-3 anni dopo feci la produzione di Giorgia, io andai alla BMG con una proposta di fare una rete di locali in tutta Italia per mandare ciclicamente i talent scout magari più vicini all'etichetta per ascoltare cose nuove. Ovviamente mi dissero che non c'erano soldi ed erano lo stesso anno che hanno dato 50 miliardi a Ramazzotti. Se magari a Ramazzotti ne davano 49... Non credo che la vita gli cambiava più di tanto. Noi magari diciamo qualche talento in più. Siamo sempre lì, se non ci si crede ad alti livelli, noi fatichiamo, ma la resa è sicuramente minore. Sì, c'è anche un'altra cosa, no? Che lo possiamo dire tranquillamente, i costi di gestione per i proprietari dei locali sono proibitivi, sono altissimi, cioè fanno fatica a mandare avanti la baracca quando c'è musica per tanti motivi, adesso non entriamo nello specifico, però no, ma la colpa è anche della mentalità della gente che non vuole pagare, perché ecco, se vai al cinema spendi, se vai a sentire un gruppo di 10 persone che suona sul palco non puoi pensare di dargli, io ne so, una miseria. Per quanto è una miseria, il locale deve far pagare. La musica non può essere gratis, questo è un altro punto fondamentale. Eh sì, perché oramai già i dischi li facciamo a buttare. A fondo perduto, vero? Bene, io sono molto contento di aver avuto con noi Marco Rinalduzzi. Auguri Marco, noi grazie intanto a te, poi ci sentiamo spesso, ci vediamo, ci dovremmo vedere più spesso e soprattutto fare un po' di musica come una volta, vero? Assolutamente sì. Va bene, è una promessa che ci facciamo. Ok, Marco Rinalduzzi e le Stelle di Roma. E finalmente qui Marco si sfoga con la sua chitarra, perché io mi ricordo quando eravamo in tournée insieme in giro per il mondo con la Go Jazz All Stars di Ben Sidran, anzi facemmo fare proprio la prima tournée internazionale a Giorgia, la prima volta che usciva dall'Italia. Il primo passaporto di Giorgia è stato per colpa nostra. Il maestro Ben Sidran, dopo un assolo al fulmicotone di Rinalduzzi sul palco di Tokyo, lo definì il T-Rex della chitarra. È vero? Molto carino, è vero. Grazie a Marco Rinalduzzi, ragazzi, Francesco Tromba, Silvia Barba. Il grazie brano si intitola, no vabbè, il brano, questo è un medley proprio dedicato a un batterista come Billy sì. Cobham, e qui sentite una grande band italiana, quella guidata da Marco Rinalduzzi. A tutti voi buonasera, ci sentiamo domani qui su Radio 24 a partire dalle 19:15. Soundcheck, il suono della musica.